Brandelli Show. Brandelli Show. Dalla curva si alzerà un coro che fa Brandelli Show. Brandelli Show. Brandelli Rock. Noi siamo i fedelissimi dello stadio del Brandelli Show. Noi saremo con te, uomo unico. Adesso che ti abbiamo conosciuto, uomo leale che sei te, adesso noi tifiamo solo l'unico uomo Brandelli Olé. La nostra grande squadra del cuore è forte dei tuoi ideali Olé, è forte perché c'è alla guida un grande uomo. Finalmente tutta unita.